con Wolf Bukowski per presentare il suo libro La buona educazione degli oppressi, piccola storia del decoro, che sarà a Roma al 238 Hangar delle Arti, mercoledì 29 maggio 2019. Ben trovato. Grazie, ciao, grazie della chiamata. Lo descriviamo, lo raccontiamo brevemente? Ho cercato di affrontare questo che è diventato un po' uno dei temi centrali della politica italiana negli ultimi anni, decoro e sicurezza. Poi in realtà i due termini sono inscindibili anche se hanno sfumature leggermente diverse. E ho provato a descriverlo soprattutto in qualche modo ricostruendone una genealogia, perché mi sembrava la cosa più efficace. Sono parole di cui il significato è sfuggente, la stessa sicurezza è diventata sfuggente dopo che è stata deprivata della sua dimensione di sicurezza sociale, e quindi forse il modo più efficace era appunto quello di ricostruire la storia di questi concetti. In questo senso, come ti sei mosso? Com'è partita l'analisi, l'indagine? Proprio per questo che ti ho appena detto, l'idea è quella di capire dove e come sono emersi, quantomeno nella storia recente, ecco, non in tutta la loro ampiezza, però in qualche modo nella storia recente sono emersi soprattutto dalle parti di New York, negli Stati Uniti dagli anni Ottanta in poi, essenzialmente. Lì la sicurezza diventa la tolleranza zero e il decoro che in qualche modo contestuale, sempre in quella stessa New York, in quello stesso clima politico, è quella che si chiamava allora quality of life, espressione che viene resa in italiano con decoro, ma ultimamente vedo che molte amministrazioni hanno smesso o comunque stanno mettendo un pochino il silent sul tasto decoro e parlano di qualità della vita, quindi recuperano proprio quella che era l'espressione originaria statunitense. Va di pari passo con un processo anche di gentrificazione. Diciamo che va di pari passo con una serie di processi di privatizzazione dello spazio pubblico, tra cui anche ovviamente la gentrificazione nelle sue evoluzioni più recenti, però complessivamente il punto centrale è quello neoliberale della privatizzazione. Ecco, poi questo vuole anche dire di seguito appunto alla messa a profitto dello spazio, alla messa a profitto della città, dei luoghi pubblici, dei servizi pubblici e così via. Questi giorni c'è una mostra del fotografo Tano D'Amico intitolata Guerra ai poveri. Ecco, il concetto sembra proprio quello non di guerra alla povertà, ma di chi incarna materialmente quella povertà e viene fatto sparire dagli occhi dello sguardo pubblico. Sì, questo è quello che caratterizza la tolleranza zero, per esempio quella che dicevo, newyorkese degli anni 90, dal 94 in poi, ma in realtà anche un pochino prima, ed è quello che sostanzia un pochino anche i provvedimenti nostrani più recenti. Per esempio il decreto Minniti del 2017 non è il primo, è assolutamente, qui parliamo di una storia un po' più lunga, però quello in cui siamo ancora pienamente immersi oggi, che è il decreto Minniti, parla di contrasto alla marginalità, quando poi invece vai a vedere nell'articolato si tratta di contrasto ai marginali, quindi è proprio quello lì il passaggio, si finge un contrasto alla povertà, ma in realtà vuoi solo togliere lo spazio, il povero dallo spazio pubblico, e non solo il povero, poi tutte le marginalità e anche la militanza politica è un'altra cosa che viene colpita. Oh, fai partire tutto dagli anni Ottanta, da una megalopoli statunitense. Quali altre sponde, oltre all'Italia, ha avuto nel corso degli anni questa prassi? Io non ho incontrato analisi che comprendessero tutto lo spazio pubblico e lo spazio politico europeo. Allora, diciamo che sicuramente il securitarismo sbarca dagli Stati Uniti in Gran Bretagna nel periodo bleriano e tardo thatcheriano, diciamo, in quel passaggio lì. E questo è il securitarismo, quindi l'enfasi sulla microcriminalità, lo spostamento dei temi della sicurezza dalla sicurezza sociale, la sicurezza dell'abitare, la sicurezza dei posti di lavoro alla mera protezione, tra l'altro illusoria, dalla microcriminalità. E quindi quello è appunto un percorso che dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna e poi sbarca in Europa, è stato analizzato già dal 2000, ecco, quindi non è niente di recente l'analisi di questa traversata atlantica. Il decoro, quindi con anche per esempio tutta l'architettura ostili, spuntiva, sponzoni che rendono impossibile sedersi sui gradini, oppure le panchine con i braccioli antibivacco. Ecco, questo è un'epidemia che sicuramente in Europa è diffusa anche al di fuori dall'Italia, però un'analisi su questo piano continentale non c'è e non l'ho fatta io. Riguarda solo l'Occidente o anche le megalopoli di altre sponde? Che io sappia, per esempio Pechino è interessato da processi di questo tipo, che sono, tra l'altro, c'è un livello di telesorveglianza, legato anche alla telesorveglianza, quindi si lega anche poi a tutti quegli sviluppi che sono tra appunto il controllo securitario, disciplinare, il commercio, il traffico di big data, quindi è legato a tutti questi processi. A Pechino, che io sappia, c'è tipo una telecamera ogni 3 abitanti, quindi il processo è di quel tipo e ci sono anche stati sgomberi violenti a quelle che erano periferie urbane abitate informalmente da poveri, quindi sicuramente lì ci siamo. Quello, e la chiamano, che io sappia, quality of life, in cinese, in mandarino, ma la chiamano quality of life. E che tipo di città prefigura tutto questo movimento? Allora, chiaramente una città neoliberale governata da interessi forti, economici, da quelli appunto della finanza, da quelli del mattone. Qui in Italia possiamo anche dire da quelli dell'Andrangheta, perché Mattone e Andrangheta sono, e le altre mafie sono sempre piacevolmente uniti. Quindi questo su quel piano, sul piano politico, è quello evidentemente di una rappresentazione sterilizzata dello spazio pubblico che piaccia a una certa classe neanche media, impoverita, spaventata, che anziché, come dire, viene indirizzata all'odio verso il più povero, purché non riconosca che è vittima anche essa dei processi di estrazione della ricchezza, di impoverimento a favore dei più ricchi, essenzialmente. Quindi questi sono su questi due piani, insomma, il piano economico è un piano tipicamente neoliberale, con questi tipi di interessi, la grande distribuzione, il grosso commercio, la turistificazione sempre più violenta, sempre più aggressiva e che rende impossibile vivere nella città. Ecco, questo è poi. Che idea abbiano i nostri politici e amministratori di, una volta espulsi i poveri, pardon, dalle zone rosse, dai centri cittadini, dalle prime periferie, non so loro che idea abbiano, a un certo punto, come dire, questa cosa assume tratti che non voglio neanche, come dire, nominare, indagare, perché sembrerebbe che a un certo punto questi debbano proprio salire. Come farli salire? Questo è un interrogativo che sfiora la disumanità totale. Nel corso della tua ricerca ti è capitato di imbatterti in interessanti forme di contrasto a tutto questo? Oddio, mi sembra che il contrasto sì, lo stiano facendo diverse realtà sociali, associative, spazi sociali, centri sociali, gruppi più o meno formali o informali che stanno cercando di demistificare tutta questa retorica, chi si oppone per esempio al rimbalzo di Airbnb. Certo che d'altra parte invece c'è un grande esercito di ingenui a cui non siamo ancora riusciti a spiegare che la partecipazione subalterna a certe iniziative apparentemente innocue, ma già venate di un'idea sterilizzata della città, e dico il nome, Retake, per capirci, che la partecipazione alle cose tipo Retake è in realtà totalmente subalterna a un modello spietato, neoliberale, antisociale della città. Ecco. Quindi da un lato ci sono chi lo contrasta attivamente, dall'altro c'è chi per ingenuità, per nostra incapacità di spiegarlo fino in fondo, si lascia coinvolgere in queste iniziative apparentemente innocue, ma in realtà totalmente subalterne a quel modello. Sì. Volevo chiederti anche dei riferimenti web per saperne di più sul tuo lavoro. Ma allora, sul mio lavoro ci sono un po' di link che raccoglie anche la casa editrice Allegri, quindi insomma li spammiamo sui social di Allegri, sul mio Twitter, insomma su questo direi che si trovano, cioè, ci sono un po' di recensioni. Poi ecco, su Roma diciamo che c'è il mondo, ci sono un sacco di siti che se ne sono occupati. E allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, al 238 Hangar delle Arti, mercoledì 29 maggio 2019, la presentazione del libro La buona educazione degli oppressi, piccola storia del decoro, presente l'autore Wolf Bukowski. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao a tutti, ciao.